Carissimi ragazzi in ascolto, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio, dato Leonardo Maria Pompei per una nuova puntata di Spazio Giovane, la nostra amatissima trasmissione dedicata a voi, giovani, appunto la catechesi giovanile, che settimanalmente ci tiene compagnia sulle frequenze di questa nostra amata radio. Vi ricordo che stiamo insieme trattando il ciclo di catechesi sui 10 comandamenti e che la volta precedente abbiamo cominciato, diciamo, a entrare un pochino nel merito del quarto comandamento, ricordando il contenuto di quella che è la pietà filiale, che regola appunto la virtù cardinale della giustizia, specificando i doveri dei genitori verso i figli. E quindi cercando un attimo di circoscrivere i doveri di obbedienza e di gratitudine e di assistenza morale e materiale che i figli sono tenuti a conservare nei confronti dei genitori, specificando anche la diversa modalità con cui, a seconda dell'età, questo comandamento deve essere osservato. È cosa diversa l'obbedienza di un fanciullo. È cosa diversa l'obbedienza di un figlio adulto. Quindi abbiamo cercato di focalizzare questi aspetti. Oggi faremo un passo avanti e penso che ricordando rapidissimamente, diciamo così, gli ambiti a cui questo comandamento si estende, quindi i doveri che si hanno e i limiti anche dei doveri che si hanno di obbedienza nei confronti delle autorità costituite. E poi cominceremo a verificare, diciamo, l'aspetto speculare, perché ai doveri dei genitori verso i figli corrispondono anche dei doveri, scusate, al dovere dei figli verso i genitori, perdonatemi il lapsus, corrispondono dei doveri dei genitori verso i figli, che sono appunto parte integrante, come accennavo nella prima puntata, di questo primo comandamento, e sono dei veri e propri doveri, mi perdonerete se su questo mi soffermerò un pochino, perché senza dubbio il quarto comandamento è un comandamento in crisi, nel senso che oggi molti figli sono veramente sciagurati nel comportamento che hanno nei confronti dei genitori, però purtroppo in qualche circostanza vale anche il contrario, cioè molti genitori non sono proprio ineccepibili nei confronti dell'educazione dei figli e a volte, come dire, certi comportamenti non proprio consoni, in qualche modo, certi genitori, scusate, è come se se ne andassero in un certo senso a cercare e ad attirare, perché certamente un figlio disobbediente ti può uscire così ed è una grandissima croce, però, come vi ricordavo, come ho accennato, l'autorità, che è una cosa oggettiva e che comunque Dio ha conferito ai genitori, e come vedremo tra poco, a tutti gli organi, diciamo, che esercitano una autorità e che in qualche modo rappresentano nostro Signore e l'aspetto appunto della sua sovranità, non è tutto, perché l'autorità si esercita tanto meglio quanto maggiore è l'autorevolezza. L'autorevolezza consiste come dire, nell'essere esempi, nel proporsi come esempi, quindi esercitare un'autorità non semplicemente in maniera becera o burbera, si fa così, punto e basta, ma motivando sempre il contenuto delle disposizioni e soprattutto essendo esemplari nel metterle in pratica. Immaginate un figlio che dicesse, un genitore dicesse a un figlio non fumare e lui fuma come un turco, dice no, ma ti dico di non fumare perché non devi ripetere i miei stessi errori, e intanto comincia a toglierti il tuo, ecco. E poi avrai l'autorevolezza di dire a tuo figlio: io ho fatto questa stupidaggine, me la sono tolta, cerca di non fare altrettanto, no? Quindi questo dobbiamo averlo abbastanza chiaro. Vi dicevo, vi accennavo già nei primordi di questi comandamenti, di questo comandamento, scusate, che a partire dall'autorità, diciamo, naturale, la prima che si costituisce in virtù della legge di natura, che è appunto il rapporto genitore-figlio, questo comandamento si applica per estensione anche alle altre forme di autorità, per esempio i professori, i maestri, le autorità, come dire, civili, i i politici, i governanti. Il fondamento è identico, ricordate che quando si parla di onore non si parla di un atteggiamento, onore che vi ricordo comporta la gratitudine e l'ubbidienza, che è dovuta alla persona in quanto meritevole, ma è dovuta alla persona in quanto ricopre quel determinato ufficio. Chiaramente. Questo ne circoscrive anche i limiti, perché nei confronti di tutte le forme di autorità costituite vale maiore l'azione quello che è stato detto riguardo i genitori. C'è anche, diciamo, un surplus. Non bisogna obbedire mai e per nessun motivo a nessuno, ecco, quando qualcuno pretende di andare oggettivamente contro la legge di Dio. Questo l'abbiamo già visto. C'è il canone cosiddetto Petrino. Famoso discorso di San Pietro negli Atti degli Apostoli, abbiamo già citato, le autorità religiose del suo tempo a cui bisogna obbedienza proibiscono a San Pietro di predicare nel nome di Gesù, sta di fatto che Gesù Cristo in persona gli aveva detto di farlo e loro hanno tranquillamente continuato a farlo. E quando li hanno rimproverati di disobbedienza, gli ha risposto: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Vi faccio subito un esempio: pensate oggi ai medici che lavorano in un ospedale e che si rifiutano, facendo obiezione di coscienza, di praticare l'aborto. Ecco, se uno non avesse chiaro, insomma, perché nessuna legge dello Stato può obbligarmi ad uccidere. Chiaramente questi ambiti potrebbero essere molto, molto, molto, molto ampliati, d'accordo? A tante varie fattispecie, anche da un punto di vista civile. Io vi lascio delle provocazioni, d'accordo? Cioè delle domande, domande un pochino retoriche, no? Circa i comportamenti che si devono avere e che non possono essere giustificati da esigenze di lavoro oppure da disposizioni, come dire, superiori della categoria a cui appartengo, per esempio dell'ordine professionale a cui appartengo, perché l'ordine professionale a cui appartengo è sottomesso comunque alla legge di Dio, punto e basta, d'accordo? Quindi non si può scendere su queste cose a compromesso. Allora pensate. Un titolare di un esercizio che vende la stampa, che vende i giornali. È lecito, secondo voi, che venda un certo tipo di stampa? Oppure potrebbe, anzi dovrebbe, non vendere quel certo tipo di stampa? Quindi rinunciando all'eventuale guadagno. E se anche io adesso non so come funzionano queste cose, ci dice: ma qui se io faccio la categoria, se faccio parte della categoria di questa categoria, la mia associazione professionale dice: tu devi vendere tutto, non puoi farti i peli sul scrupoli. Ecco, allora fosse così, bisognerebbe opporsi a una cosa di questo genere, perché che io diffonda la stampa immorale non esiste proprio, neanche se sono un giornalaio, la stampa oppure i video, oppure le videocassette, eccetera, eccetera. Pensate per esempio all'ordine dei farmacisti. In farmacia si vendono tante cose, pensate alla pillola RU486, pensate alle pillole anticoncezionali. Io no, non è che non capisco, d'accordo, che si possano porre anche dei seri problemi da un punto di vista. Mi chiedo e lancio questa provocazione: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, e noi non possiamo in nessun modo cooperare formalmente al male, questo ricordiamolo, quindi noi non possiamo in nessun modo cooperare alla diffusione del male, al male dobbiamo opporci. Se non possiamo farci personalmente niente, chiaramente non si possono fare rivolte armate o rivoluzioni, possiamo subirlo, possiamo tollerarlo, mai cooperarlo cooperare al male però, Quindi pensate oggi, io ho studiato la legge, pensate se io mi fossi trovato a fare il magistrato, io lo so benissimo che il magistrato è soggetto soltanto alla legge, l'ho studiato, e che il magistrato, la legge non è compito del magistrato di scrivere la legge, ma la legge va a metterla in pratica. Ecco, però tu puoi fare il magistrato e ti puoi trovare dinanzi a un procedimento di divorzio. E istante alla legge italiana la devi pronunciare la sentenza di divorzio. Allora io penso che almeno un magistrato possa essere lecito, no, è lecito davanti a Dio, non lo so se lo possa fare davanti agli uomini, ma in questo caso dovrebbe combattere, e dire: benissimo, io mi occupo di altro. Da queste cause io personalmente voglio essere dispensato. Così come gli avvocati, io ho lavorato qualche tempo come avvocato, gli avvocati cristiani evitano di trattare queste cause, le cause di divorzio. Inutile dire se non lo faccio io lo fa qualcun altro, che significa questo discorso qui? Quindi È anche inutile dire no, ma meglio che le tratto io perché così almeno ci provo a fargli fare pace. E se pace non la fanno, cosa fai poi? Devi comunque andare in aula a perorare una causa di divorzio. E Dio non vuole che sia toccato il matrimonio sacramento. Quindi bisogna fare molta, molta, molta attenzione a queste cose, ragazzi, oggi, perché nel contesto sociale in cui ci troviamo a vivere. Dobbiamo fare estrema attenzione. Ricordate anche una cosa che a detta di alcuni autori, un tema molto delicato come quello delle tasse, ve lo dico perché ho trovato e poi ci ho scritto qualcosa, ne parleremo poi a suo tempo perché ne parleremo nel settimo comandamento, però vi accenno qualcosa. E il fondamento del potere che ha lo Stato di chiedere in misura equa, cominciamo subito a sottolineare questo punto, il contributo fiscale ai cittadini, si trova nel settimo comandamento, nel quarto comandamento, non nel settimo, perché il settimo comandamento proibisce di toccare i beni dei nostri uguali, però lo Stato ci chiede le tasse perché agisce con noi sulla base di un rapporto di autorità. Però vedete, anche questo, l'obbedienza è dovuta al superiore nella misura in cui la sua obbedienza non leda il bene oggettivo. Quindi, domanda: è lecito ad uno Stato chiedere a un cittadino di contribuire con i soldi che paga per il 51% del suo reddito? Punto interrogativo, punto interrogativo. È lecita una cosa di questo genere? Come avviene purtroppo in alcuni ambiti contemporanei, in alcuni stati, in alcuni sistemi dove la pressione fiscale è altissima, cioè. Quindi che si debbano pagare le tasse è fuori di discussione, che lo Stato possa imporle è fuori di discussione. Ma ci sono due argomenti su cui si può discutere. Uno, il limite entro cui l'esazione fiscale è equa. Non c'è un limite oggettivo, questo ne discutono i moralisti. Certamente ci sono dei criteri in base ai quali uno può dire forse stiamo esagerando un po'. Due, può il cittadino controllare ed esigere che i soldi che dà lo Stato, non dico siano ben amministrati, se non paga le tasse nessuno, ma almeno non siano utilizzati per cose moralmente illecite? Punto interrogativo. Io tante volte, lo vedremo anche quando parliamo del quinto comandamento, io mi oppongo, mi sono sempre opposto, e non ho paura di dirlo anche via radio, che è stata fatta in Italia la legge criminale, perché tale è, altro che diritto, dell'aborto per uccidere in maniera legale un essere umano innocente, l'unico che non si può difendere. Cosa peraltro da grande vigliacco, d'accordo? Da grande vigliacco, perché vigliacca è la madre che si azzarda a fare una cosa di questo genere. Allora, non solo hanno fatto la legge sull'aborto, ma voi sapete che in Italia l'aborto è passato gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Adesso non mi ricordo quanti soldi, ma credo che il costo di un aborto si aggiri intorno ai 1.500-2.000 euro, non mi ricordo, potrei sbagliare, insomma, questo numero, ho letto questo dato tanto tempo fa. Io vi dico, allora, scusa un attimo, questi soldi, se sono pagati dallo Stato, da dove sono presi? Dai nostri soldi. Quindi io che pago le tasse devo accettare il fatto che con i miei soldi vengano pagati gli aborti. Ma ecco, a me, io le tasse ovviamente le pago, perché dopo un conto è parlare in linea di principio, un conto è ovvio che non si può in base a questo inneggiare a forme strane di rivolta o rivoluzione. Si sta chiaramente parlando in linea di principio, anche per avere un criterio, un parametro di valutazione e anche di azione politica, poi per eventualmente coloro che sono impegnati sotto questi punti di vista, no? Però vi sembra una cosa normale, una cosa di questo genere? A me non tanto, cioè nel senso che te li do volentieri i soldi delle tasse e ti chiederei gentilmente di non impiegarli in ciò che è oggettivamente contrario alla morale. Poi se lo Stato laico, trincerandosi dietro questo termine, oggi ha voluto dimenticare anche l'ABC del diritto naturale, espungendolo dalla legislazione dicendo che in esso non può avere cittadinanza, certamente questa è una scelta fatta ad alti livelli che io, povero cittadino, non posso certamente combattere né impedire, però posso chiedere e posso fare pressioni di vario tipo, perché questa cosa si è in qualche modo modificata. Quindi, allora, quindi questo per introdurre, quindi, nel senso che le autorità costituite hanno un, come dire, potere reale che deve essere rispettato e onorato e anche obbedito nei limiti in cui si esercita in maniera conforme alla giustizia oggettiva e nei limiti in cui non si esorbitano le proprie sfere di applicazione. Pensate per esempio, ragazzi, da studiate un pochino di storia, il cosiddetto Stato etico, così come lo Stato totalitario, è un'aberrazione, una cosa assolutamente contraria alla legge di Dio, perché lo Stato si sostituisce sia alla famiglia sia anche alla religione, pretendendo, questa è la visione hegeliana, di essere, per questo si chiama Stato etico, non soltanto colui che amministra e regola degli interessi che devono essere necessariamente regolati in forma collettiva. Poi bisogna vedere quali sono, perché lo Stato nasce per garantire alcuni come dire, interessi fondamentali, la sicurezza, l'ordine pubblico, la difesa nazionale. Poi gli ambiti, come dire, garantiti dallo Stato negli Stati moderni sono sempre andati maggiormente ampliando. E anche qui bisogna vedere se e dentro quali limiti questo è possibile. Sicuramente non possono diventare totalizzanti, cioè non posso accettare che la famiglia venga esautorata e che l'educazione dei cittadini venga devoluta allo Stato. Qui capite che si impone, che si apre anche tutto quanto il problema della scuola e che dovrebbe essere un diritto per i cittadini. Io ho scritto di queste cose quando stavamo sotto lezioni politiche a proposito dei valori non negoziabili, no, perché ci fu un intervento di Monsignor Negri, il quale fece notare che tra i valori non negoziabili c'è anche il diritto alla libertà di educazione. Cioè, siccome mio figlio a scuola ci va, e la scuola è un'agenzia educativa, è un'agenzia educativa importante, io non posso impedire a mio figlio che vada a scuola. Che cosa gli insegnano a scuola? Voi sapete, ragazzi, una cosa che io non sapevo, che per esempio circa un annetto e mezzo fa fu fatta a livello legislativo la ovvia proposta di espungere dai libri di testo l'insegnamento ridicolo e completamente infondato dell'evoluzione in senso darwinistico, a cui vi invito a leggere le varie pubblicazioni esistenti in merito soprattutto le lucide considerazioni di Roberto De Mattei, pubblicate, credo, su Corrispondenza Romana, si trovi qualcosa sul web, oppure, non voglio fare pubblicità, però sono le fonti che conosco io, gli illuminanti quaderni del timone, che possono essere richiesti nella sede milanese, di questa splendida rivista di apologetica. Fu fatta una proposta che poi decadde, arrivato il nuovo governo Monti, questa proposta decadde. Ma insegnare a un ragazzino che l'uomo deriva dalla scimmia è una cosa ridicola oltre che una cosa falsa. D'accordo? Io mi ritrovo i ragazzini a catechismo e quando parliamo della creazione gli faccio io l'ultimo anno di cresima e gli parlo della creazione. Questi mi dicono: Madonna, ma che stai a dire, Dolorana? Ma noi veniamo dalle scimmie. Dico sì, io gli rispondo: tu vieni dalle scimmie, io no. Ecco, gli rispondo in questo modo, gli rispondo, perché per quanto mi riguarda non è affatto, oltre che essere ovviamente falso da un punto di vista scientifico, e glielo spiego perché, dico non è affatto onorevole, insomma, no? Non mi sembra che sia molto nobile, cosa di cui vantarsi, a poter dire ho tra i miei antenati gli scimpanzé, no? Ecco, penso che la dignità dell'uomo sia leggermente superiore a quella di uno scimpanzé, per questo che gli rispondo tu derivi dalle scimmie, non io, insomma, no? Però questo è. Quindi, allora, se io voglio mandare mio figlio a una scuola privata, adesso lasciamo perdere la situazione purtroppo non proprio rosea di alcune scuole cattoliche, però voglio mandare i miei figli a studiare dai gesuiti, o voglio mandare a studiare dai salesiani, o voglio mandare a studiare dalle suore X, se questo mi costa, oltre che le tasse, come tutte le altre scuole, migliaia di euro ogni anno, io non ho i soldi per mandarlo, ma mi spiegate dove sta la libertà di educazione? Io sarò costretto a mandare mio figlio a scuola pubblica. Alla scuola pubblica ci saranno degli insegnanti che la pensino in un certo modo, forse anche non compatibile con quelle che sono le mie personali credenze religiose. E siccome non posso fare diversamente perché non sono Rockefeller, dovrò per forza mandare mio figlio lì. Ma questo non è garantire la libertà di educazione, e la libertà di educazione è un diritto civile a casa nostra. Quindi, capite? Quindi, Tenete sempre presente che quando la Chiesa, come dire, si interessa di realtà che noi oggi chiamiamo politiche, non lo fa perché intende, come dire, sposare qualche partito, assolutamente. Lo fa perché intende promuovere, tutelare e difendere alcuni valori che necessariamente poi saranno o favoriti oppure osteggiati da coloro che governano. Per questo è anche molto importante quando noi, quando sarete grandi, per quelli che sono minorenni e adesso, che quando andiamo a votare stiamo molto attenti, stiamo, perché non c'è interesse, problema, situazione dannosa che possa giustificare un appoggio, qualora. Scusate, il partito che sto appoggiando non sia, come dire, in linea con quelli che sono i cosiddetti valori non negoziabili. D'accordo? Quindi questo dobbiamo assolutamente ricordarlo e per nessun motivo dimenticarlo. Ecco, quindi, allora, chiuso tutte quante queste parentesi, quindi ribadiamo che esiste un vero dovere di onorare le autorità differenti dai genitori, purché rimangano sempre nei limiti imposti dalla legge di Dio, cioè uno, che non comandino cose ingiuste e due, che non esorbitino dai limiti delle loro autorità, quindi non si intromettano in sfere e in questioni che non gli competono. A queste condizioni, belli o brutti, buoni o cattivi, sono d'accordo o non sono d'accordo, si deve comunque rendere anche a queste autorità l'onore che gli è dovuto in base alla volontà di Dio. Ora, a fronte di questo del dovere di onorare i genitori, come abbiamo più volte accennato, c'è il dovere grave dei genitori di educare i figli. Chi si è sposato in chiesa, tra l'altro, sa che il giorno del matrimonio gli è stato esplicitamente chiesto dal sacerdote durante lo scambio del consenso matrimoniale questo: siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi? Attenzione, non quelli che voi volete fare. Di questo ne parleremo quando arriveremo al sesto comandamento. E non solo, e a educarli secondo la legge di Dio e della Chiesa. C'è questa seconda domanda. Quindi non basta farli figli, cosa che oggi già è tanto. Ecco. Bisogna anche educarli in maniera conforme alla legge di Dio e al Vangelo. Quindi questi sono doveri stretti dei genitori. E che cosa vuol dire questo? Educarli, vi ripeto, secondo la legge di Dio e il Vangelo, vuol dire due cose. Uno, trasmettere loro la legge di Dio e il Vangelo, trasmissione che si fa a parole e con la vita. Ma non solo. Due, educarli nel modo, quindi con lo stile educativo che è richiesta dalla legge di Dio e dal Vangelo. Stile educativo che vi preannuncio subito, poi lo vedremo, forse vi leggerò qualche piccolo passo se abbiamo tempo della Sacra Scrittura, che comporta l'unione tra l'amore e la severità, tra la dolcezza e la fermezza, senza, come dire, optare in maniera unilaterale per una di queste due sole linee. Ora, mentre, come sapete, l'educazione classica, antica, forse esagerava un po' sul versante della fermezza e della severità, diventando forse, io ci metto sempre forse vicino, un po' troppo rigida, quella contemporanea, la fermezza e la severità, le ha completamente dimenticati, diventando, a mio modestissimo parere, non dolce, perché la dolcezza senza la fermezza diventa mollezza, diventa l'essere pappa molle e provoca la proliferazione di figli senza spina dorsale, maleducati, non soltanto maleducati nel senso comune, ma proprio educati male. E che questo si vede nel fatto che da grande sono assolutamente incapaci di due cose. E forse, ragazzi, qualcuno di voi è così: uno, di prendere scelte definitive, e due, di sopportare con dignità le sofferenze e i sacrifici a cui inevitabilmente la vita ti pone dinanzi. Sono i due problemi fondamentali. Perché oggi un sacco di ragazzi vanno a convivere? Non lo siete mai chiesto? Non soltanto perché vogliono fare tutte quante le cose da subito, prima del matrimonio, ma perché non se la sentono, hanno paura di una scelta che li coinvolga a vita. E perché una volta che sono andati a convivere oppure a sposarsi dopo 2 mesi divorziano? Perché non sono capaci di soffrire neanche un po'. Cioè, alla prima difficoltà, al primo ostacolo, alla prima prova seria, crollano e bypassano. Quindi la regola assoluta è non soffrire, non sacrificarsi, tutto comodo e tutto facile. Questo non è soltanto un fenomeno da, come dire, da condannare da un punto di vista morale, indubbiamente, ma è un fenomeno da registrare e che rappresenta il fallimento assoluto di un certo stile educativo che non funziona, purtroppo. Non funziona proprio. Ecco, quindi adesso facciamo insieme un Ave Maria come sempre e poi continuiamo introducendo un po' questo tema. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, riprendiamo, introduciamo. Allora, ragazzi, l'educazione è l'arte delle arti. Noi abbiamo una tradizione che chiaramente, come tutte le cose appartenenti alla sana e santa tradizione cattolica, abbiamo degli esempi e dei giganti dell'educazione, un nome fra tutti, su cui tutti sono d'accordo, che è molto conosciuto, è San Giovanni Bosco, che ci insegnano l'arte di educare i ragazzi, che presuppone una visione dell'uomo conforme alla rivelazione. Perché l'educazione deve essere animata da ferma dolcezza e da dolce fermezza, da amorevole severità e da severa amorevolezza? Ecco, così sgombriamo subito il campo dagli equivoci. E perché non si può, come dire, propendere unilateralmente per una sola di queste due cose? Perché l'uomo, e quindi il bambino, chi è? Ce lo dice la rivelazione chi è. È una creatura di Dio, quindi in quanto tale è creata buona, tendente al bene, eccetera. Ma è proprio vulnerata, ferita, e ferita in maniera seria dal peccato originale, che ha alterato la struttura, la bontà originaria dell'uomo, causando in lui una inclinazione negativa e interna a lui verso il male. Quindi, in quanto essere buono che viene da Dio, bisogna sempre toccare le leve che noi sappiamo essere dentro di lui, perché è comunque da lui creato, della ragionevolezza, del cercare di spingerlo verso il bene, verso cui la persona sente comunque una forma interna e segreta di attrazione. Però, in quanto è inclinato al male, deve essere fermato ed indirizzato, anche severamente in alcuni casi, per evitare che si spacchi la testa, detto in due parole. Attenzione perché durante il corso della storia, a livello filosofico, ci sono stati due grandissimi esponenti che hanno fatto danni enormi dall'uno e dall'altro settore. Sono due filosofi, uno è uno dei fondatori dell'illuminismo, più che fondatore, un diffusore dell'illuminismo, che è Jean-Jacques Rousseau, e dall'altro Hobbes, che proponevano due visioni completamente opposte dell'uomo e che peccano di unilateralità. Perché per Hobbes, vi ricordate, c'è la famosa massima di Hobbes, homo homini lupus, quindi l'uomo è una belva feroce, quindi per l'altro uomo è un lupo, quindi è cattivo. E quindi dall'uomo bisogna guardarsi come da un nemico. Quindi se l'uomo fosse veramente così, come si domano gli animali? Come si educano gli animali? Lo sapete voi, io ho un bel cagnolino a casa. Come si doma un cavallo? Come si educa un cane? Ammazzate. D'accordo, bisogna soggiogarlo, ecco, per impedire che tutti i suoi brutali istinti lo dominino e quindi si rivolti contro l'uomo. Invece Rousseau, come tutti gli attenzione anche oggi, oggi siamo circondati da neoilluministi che sono i massoni, ragazzi, che vorrebbero diffondere questa nuova e raffinata e contemporanea forma di illuminismo in mezzo al mondo. Attenzione ragazzi a quello che vi dico, ecco, aprire gli occhi e le orecchie. Allora, Jean-Jacques Rousseau, che bello, stare attenti che l'illuminismo è ciò che ha ispirato la Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese, che guai oggi ti metti a parlare contro la Rivoluzione Francese. Liberté, égalité, fraternité, libertà, uguaglianza e fratellanza. Non sono questi, secondo voi, a dettare tutti i valori universali? Per qualcuno addirittura il cattolicesimo non servirebbe ad altro che a promuovere la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza. Allora io a questo qualcuno dico, scusa un attimo, non basta la rivoluzione francese a fare questo, ci vuole il cristianesimo. Ma scusa, se il cristianesimo hanno fatto questo, che non ha fatto nient'altro che questo per 1800 anni, nel 1793 cosa hanno fatto a fare la rivoluzione francese? No, nel 1789 credo, oddio ragazzi miei, 1789 la Rivoluzione Francese credo, la vecchiaia fa brutti scherzi a volte. E che cosa hanno fatto a fare? Allora, Rousseau cosa diceva? Chi è l'uomo homini lupus, l'uomo che... Ma quando mai? L'uomo è un angioletto, l'uomo è naturalmente buono, altro che uomo homini lupus. Dice, allora Rousseau qualcuno dice, ma come mai è naturalmente buono? Non lo vedi che in tante circostanze si comporta male? Ah, no. Si comporta male, ma si comporta male semplicemente perché c'è un piccolo processo, un piccolo errore. Cioè, quindi la cattiveria dipende da qualche cattivo esempio, da qualche comportamento sbagliato. Quindi basta semplicemente correggerlo e educarlo meglio. Ma non temere, quello è buono quello lì. Per cui sapete che c'era un grande esempio. Dice, che cosa fai fare? Allora, se un bambino sta giocando a pallone, d'accordo? E tu gli hai detto, guarda, non giocare a pallone lì, perché stai vicino alla finestra di casa. Poi, se giochi qui, c'è pericolo con la pallonata, spacchi la finestra. Allora, il bambino continua a giocare a pallone e spacca la finestra, ragazzi. Allora, provate a improvvisarvi, genitori di questo bambino. Cosa facciamo? Che cosa facciamo? Cosa facciamo? Gli diamo un sacco di botte? Gli diciamo, ma tesoro che hai fatto? Non fa niente? Oppure gli diciamo, tesoro che hai fatto? Riparo la finestra? Oppure gli diamo un sacco di botte e poi non gli diamo una lira fino a quando non abbiamo rimesso da parte i soldi per riparare la finestra? Cosa facciamo, ragazzi? Ora vi dico quello che avrebbe fatto Rousseau. Siccome questo è un incidente, poverino, questo non è colpevole di quello che ha fatto. Quindi, vado a dire, gli do una bella carezza e dico, va bene figlio mio, la prossima volta non farlo più, ok? Poi riparo la finestra e faccio come se niente fosse. Questo è quello che avrebbero fatto Rousseau e gli illuministi. Non vi dico il resto, poi lo capiremo sicuramente proseguendo con la trattazione. Allora, San Paolo dice una cosa fondamentale. Educate i figli nella disciplina del Signore. Quindi la vita cristiana è una vita, a noi non ci piace oggi questo termine, disciplinata, cioè che ha un ordine che viene, ripeto, spiegato, fatto interiorizzare, proposto con amore, presentato con dolcezza, tutto quello che volete. Però viene presentato in questo modo. Ok? Quindi, Gli educatori hanno sempre raccomandato una grande e soprannaturale carità da esercitare e da far percepire ai destinatari dell'educazione. Pensate al motto di San Giovanni Bosco che diceva: studia di farti amare. Questo vale anche per un genitore, perché è meglio essere amati che temuti. Poi, una modalità educativa che tenda più possibile a trasmettere valori, non ordini vuoti e perentori. Si fa così, punto e basta. No, si fa così perché, te lo spiego perché. Quindi valori sodi, fermi e motivati, cercando di radicarli dentro il cuore dei ragazzi, che anche nei periodi di grande turbamento e tentazione, si pensi all'adolescenza, e io ne ho esperienza di questo, conservano comunque un'irresistibile attrattiva verso il bene. Cioè noi abbiamo un alleato interno, perché quelle sono creature di Dio, quindi la loro anima viene da Dio, quindi nel fondo del cuore lo sentono in qualche modo. Il bene e il vero, anche se purtroppo sono inclini al male e al falso. Quindi, quando falliscano i modi educativi amorevoli, motivati e pacifici, bisogna ricorrere all'esercizio dell'autorità. Quindi, non come stile ordinario e in maniera cieca, vuota o gratuitamente violenta, ma come rimedio al, come dire, al fallimento, se vogliamo, delle buone. Quindi è l'estrema ratio, ma come estrema ratio va fatta. Anche mediante l'applicazione di salutari e proporzionati castighi. Oggi non si può più parlare di questa parola a nessun livello. Certamente bisogna avere attenzione nel non sfogare la propria rabbia e la propria ira su un povero ragazzino, cosa che talora capita. Però bisogna anche intervenire in alcune situazioni. Cioè, i libri sapienziali, io ricordo quando lo lessi, vediamo se adesso, mentre parlo con voi, riesco a ritrovare proprio la citazione originale. Sono terribili. Cioè, nei libri sapienziali si usano delle parole terribili. Se ami tuo figlio, usa il bastone, insomma. No? Quindi è il libro dei Proverbi. Ecco, eccoli qua. Andate a vedere i capitoli 22 e 23 del libro dei Proverbi. È terribile, cioè terribile, cioè sono delle cose abbastanza forti. Adesso certamente bisogna fargli un po' la tara del contesto storico-culturale in cui alcune cose sono state dette e pronunciate, però comunque il concetto è quello, quindi sentite per esempio Proverbi 23, 13-14, adesso non andate a chiamare il telefono azzurro. Non risparmiare al giovane la correzione, anche se tu lo batti con la verga, non morirà, anzi, se lo batti con la verga, lo salverai dagli inferi. Questo è il libro dei Proverbi. Attenzione a non andarla a mettere in pratica questa cosa qui in maniera becera, senza capire il senso, no? Ecco, però il senso è abbastanza chiaro, nel senso che se è necessario, purtroppo bisogna intervenire. Su un figlio, perché altrimenti diventa poi un guaio, cioè lo si lascia con alcuni difetti senza correggerlo. Ok, quindi è abbastanza chiara la sacra pagina, quindi bisogna assolutamente fare attenzione ai dati che ci vengono dalla Sacra Scrittura. I libri sapienziali esortano sempre, in varie forme, in vari modi, sparsi insomma dappertutto. Adesso potrei citare il libro del Siracide, vediamo un attimo se lo trovo, insomma. Vergogna per un padre avere un figlio maleducato, se si tratta di una figlia è una rovina, eccetera, eccetera. Siracide capitolo 22, andatele a vedere, insomma, sono 22, Siracide 22, 26, 30, 42 e poi il libro di Proverbi capitoli 22, 23 e 29, per andare a prendere un pochettino, insomma, di spunti biblici, diciamo così, sull'educazione. E poi c'è Efesini 6:1-4 che raccomanda di educare nella disciplina del Signore senza inasprire i figli. Aspetto molto importante, oggi non molto frequente, ma comunque molto importante. Quindi attenzione, ecco, non bisogna certamente, ripeto, essere violenti nei modi o essere come dire, dittatoriali o spicci, però io ho visto nella mia esperienza dei figli piccoli, ma piccoli, prendere a parolacce un genitore, una mamma, ma anche mandandola a quel paese e la mamma non avere nessun tipo di reazione. Se non, ma dai, ma perché tratti così mamma? A un ragazzino. Cioè, se io avessi fatto una cosa del genere davanti a mia madre, penso che i dentisti della mia città natale avrebbero avuto sicuramente un cliente in più. E non si tratta di, cioè, se tu non intervieni, cioè se tu lasci che tuo figlio piccolo tratti la madre in questo modo, altro che onore al padre e alla madre, ma quello secondo te da grande, come tratterà i suoi pari? Come tratterà un domani sua moglie? Come la tratta sua moglie? La tratta come una pezza da piedi, dicono a Roma, sicuro. Perché si è sempre imparato a parolacce la madre, senza che la madre gli opponesse nessun tipo di reazione. Ma come deve trattare i propri simili? Un altro aspetto dell'educazione, raccomando agli educatori, è, e questo pochi genitori oggi lo mettono in pratica, evitare di abbandonare o esporre i ragazzi a continue e pericolose occasioni di peccato. Cercando per quanto possibile, specialmente nel mondo contemporaneo, che è difficilissimo, di custodirne la moralità, la purezza e la bontà, e mettendoli al riparo da luoghi, persone o ambienti che potessero in qualche modo minarle queste cose. Capite? Allora, io credo personalmente. Tante volte me lo dicono i genitori, dice, padre, le sembra facile oggi? Dico, le sembra facile? Assolutamente no. So benissimo che è tutt'altro che facile oggi. Lo so. È difficile fare il prete, perché pensate che fare il prete oggi sia facile, quando uno si trova dinanzi a delle cose macroscopiche e che se t'azzardi a dire mezza parola te se mangiano vivo, d'accordo? Perché non, anche dinanzi a dei comportamenti palesemente da correggere e da rimproverare. Cioè, di tutto oggi si trova davanti, quindi viviamo in quest'epoca balorda, per cui è diventato tutto sommamente più difficile, perché dilagando il male, se una persona cerca di trasmettere il bene, dovrà fare 40 volte gli sforzi e il lavoro che doveva fare qualche tempo prima. Ho capito, è semplicemente diventato più difficile, però non siamo esenti dal farlo e dal dover compiere, insomma, questo sforzo per il bene dei nostri figli. Allora, qualche tempo fa, ecco, apparsa mi sembra sul settimanale di Padre Pio, io me lo so copiato perché era una cosa molto bella e molto interessante, una sorta di decalogo, quindi diciamo, mappa, non stiamo a fare 10 comandamenti, ora c'è un altro decalogo, è il cosiddetto decalogo del buon educatore, dove c'erano alcune norme, diciamo così, sagge, che dovrebbero animare i criteri con cui ci si propone in qualità di educatori nei confronti dei figli. Il primo diceva così: mostrare affabilità ma non debolezza. Cioè, i nostri figli devono capire che se io sono buono non perché sono debole, ma sono buono perché gli voglio bene. E quindi la mia bontà, ripeto, non è incapacità di intervenire. D'accordo? Secondo, unire austerità e mitezza. Quindi vedete sempre questo equilibrio tra queste due direzioni e battere su dovere e disciplina, che vanno proposte anche oggi. Non in maniera assoluta, non in maniera brutta, ma vanno insegnate ai figli. Poi, terzo, mostrare e far percepire amore vero. Non basta dire a un figlio ti voglio bene, questo vale anche tra sposi. Non basta amare, bisogna far percepire l'amore. Cioè, i figli devono sentirsi amati. Perché se si sentiranno amati, accetteranno anche le misure più impegnative che gli verranno proposte durante il percorso educativo. Quarto, mostrare che si è disposti al sacrificio per educare. I genitori lo sanno benissimo, se i figli, scusate, sanno benissimo se un genitore è disposto a soffrire e a sacrificarsi per lui e lo apprezzano. Poi impegnarsi di più con i caratteri difficili e ribelli. 6. Essere vigilanti, controllare i figli, pur senza trasformarsi in poliziotti, cosa che sia pur raramente io ho visto, ho constatato in qualche volta accadere. 7. Coltivare confidenza e sana familiarità con i ragazzi, anche partecipando volentieri ai loro giochi. È importantissimo giocare con i bambini. Così come per un sacerdote è importantissimo anche giocare con i ragazzi e con gli adolescenti. È una cosa che loro apprezzano molto e che li fa sentire importanti e che li fa sentire amati. Poi correggere al momento opportuno, numero 8 siamo arrivati. Numero 9 è mostrarsi comprensivi verso le difficoltà dei ragazzi, anche in campo religioso. Comprensivi non vuol dire dirgli c'hai ragione. Comprensivi vuol dire che se tu c'hai una difficoltà, in qualunque ambito, io mi faccio solidale con te, cioè dico capisco che questa cosa ti crei difficoltà, ti crei problemi, soprattutto alla luce del contesto storico in cui viviamo. Pur capendo questo, però, ti esorto a combattere e a farla comunque perché è importante. Questo vuol dire essere comprensivo. E poi ricordare che Dio e i sacramenti sono la base dell'educazione. Questo vale sia per gli educatori che per gli educandi. Perché se non ci sta Dio, l'educazione non serve a niente e sarà completamente sterile sia da parte che la fa che da parte di chi la riceve. A fianco a questi comandamenti, come dire, che sono stati sintetizzati in qualche modo e da questo splendido giornale che tutti conoscerete, che è il settimanale di Padre Pio, diciamo come summa, diciamo, degli spunti dati dal fior fior degli educatori cattolici cristiani, insomma, e io mi sono permesso, meditando un po', di affiancare ad essi, non chiaramente in chiave sostitutiva, ma quasi in chiave complementare, alcune indicazioni riguardo agli atteggiamenti molto molto concreti, e questo mi deriva anche dall'esperienza che ormai da anni faccio come parroco, ecco, come parroco che cerca di seguire il più possibile anche il cammino e la vita dei giovani, nonché, per quanto ci riesco e per quanto mi consentono di farlo, cerco di affiancarmi ai genitori per dargli qualche, come dire, qualche dritta da un punto di vista educativo, perché, come dire, io ho avuto un'infanzia e un'adolescenza abbastanza movimentate, conosco molto bene il mondo, non sempre ho vissuto nella perfetta vicinanza con Dio, e sono rimasto comunque molto addentro, come tutti sapete, soprattutto per quanto riguarda le nuove forme di comunicazione. Cioè, penso di avere una discreta esperienza nell'ambito dei cosiddetti mass media, sotto tutti i punti di vista: televisione, cinema, internet, social network, eccetera, che sono delle risorse, ma che per i ragazzi rappresentano dei veri e propri campi minati. Io vi assicuro che la gran parte dei genitori non ha la minima idea di, specialmente quelli che sono fuori alcune realtà, cioè degli enormi pericoli che insieme alle straordinarie opportunità questi mezzi possono rappresentare per i ragazzi. Allora, io ho, diciamo così, elaborato, non so se riuscirò a dirli tutti, casomai poi ci aggiorniamo la settimana prossima, queste indicazioni. Numero uno, sospettare sui figli, a mio modestissimo parere, non è peccato. Cioè, i genitori certamente devono volere bene i figli, devono dargli fiducia e devono cercare di non creare un clima da Gestapo. Però non devono essere ingenui. Siamo stati tutti quanti ragazzi. D'accordo? E quasi tutti, io mi auguro che siate tutti quanti più santi di come lo sono stato io, abbiamo provato a fare i furbi con i nostri genitori. Io, per esempio, mi metto quasi a ridere quando i genitori si illudono che i figli gli dicono tutto. A me mia figlia mi dice tutto, a me mio figlio mi dice tutto. Io la prossima volta mi porto una telecamera ai miei adolescenti e giovani, ho detto, dico, raga, stiamo qui tra me e voi, non dico niente a nessuno. Se qualcuno a un genitore gli dice tutto, per favore, alzi la mano senza vergognarsi. Non alzata una persona, una sola. È notorio, lo sanno tutti, che dall'età adolescenziale i figli e i genitori non gli dicono tutto. E se possono fare un po' i furbetti, ci provano. Ora, c'è un furbetto, come dire, che produce pochi danni, ma alcune furbate possono produrre danni ai giovanotti. Io lo so che molti di quelli che mi ascoltano sono giovanotti, magari adesso si urtano. Però un genitore deve stare attento, deve stare. Io a volte, cioè, ragazzi, cioè, l'esperienza mi insegna, a 12-13 anni cominciano subito a vedersi alcune spie che ti fanno, come dire, insospettire, che ti fanno allarmare. Dicono, si vedono in questo ragazzo, in questa ragazza, queste spie non sono sul momento dei problemi grandi, ma l'esperienza ti insegna che se guardate queste cose possono portare a questo, questo, questo, questo e questo. Io ci ho provato tante volte a dire ai genitori, ma non ti ascoltano. Minimizzano, sottovalutano, perché non sospettano, perché tanto sì, è vero che oggi ci stanno le canne, sì, un sacco di gente si fa le canne, ci sta l'alcolismo, sì, un sacco di ragazzi finisce alcolizzati, ci sta il sesso precoce, sì, tante ragazze rimangono incinte a 12 anni, ma tanto questo a mio figlio non succede, questo è ciò che hanno in testa tantissimi genitori, ed è un disastro, è un disastro. Secondo punto. Allora, verificare se i figli sono degni di fiducia, ossia se non mentono. Cioè, il processo educativo necessariamente comporta una progressiva, attenzione, dilatazione delle sfere di responsabilità che sono lasciate ai giovani, dandogli fiducia. Però, bisogna essere, verificare che i figli non mentano. Quindi, oltre che a non illudersi sul fatto mio figlio mi dice tutto, ecco, io ho sentito altri, ah, mio figlio e mia figlia non dicono mai le bugie. Magari verifica, però. Non ci vuole tanto a fare le verifiche incrociate, non ci vuole tanto. Ma bisogna farlo, però. Ecco. Terza cosa. Non bisogna tollerare mai e per nessun motivo le mancanze di rispetto. Questo non perché il genitore si sente superbo, dice, come ti permetti di aver offeso me? No, ma perché, come vi accennavo prima, se tu lasci fare senza intervenire, oltre che un segno di debolezza che i figli colgono molto bene, di cui si approfitteranno, tu autorizzi da quel momento in poi a trattare male la tua futura moglie o marito, il tuo futuro collega, i tuoi futuri governanti e tutti. Questo non si può fare. È vero che tanti figli sono sciagurati, ma è vero che dinanzi a un offetto tu devi reagire, devi intervenire. Gli sculaccioni non hanno mai mandato al camposanto nessuno, nessuno, nessuno. Sono un gesto che mortifica un po' e sono un gesto che fa capire bene alcune cose. Oppure un castigo, tu mi hai trattato così, non lo so. Stasera non vedi la televisione, non penso che uno muoia se una sera non ha visto la televisione. Siamo diventati tutti quanti mezzi folli, no? Oppure stasera non giochi con la Wii, con la PlayStation, adesso non so come si chiamano tutte le diavolerie che c'hanno in giro adesso, la Nintendo 3, 4, eccetera. Non penso che questo sia la fine del mondo, no? Dici, oddio, povero figlio. Gli verrà l'attacco di privazione di PlayStation acuta, comincerà a fare strani gemiti, oddio, mi manca la PlayStation, dovremmo ricoverarlo in ospedale per sindrome da mancanza di PlayStation, non penso, no? Ecco, però sono cose che comunque danno un messaggio, cioè tu devi dargli il senso del limite, c'è un limite che tu non lo puoi valicare, questo è sempre così, ma il senso del peccato che cos'è? Il limite oltre cui non puoi andare. ma anche il senso della legge civile. Se tu vuoi che tu sia una persona civile, d'accordo, che interiorizza, voglia dire oggi non c'è il senso civico, non osservano le leggi, i ragazzi sporcano le strade, imbrattano i muri, ma è per forza. Se tu non gli hai trasmesso il senso del limite, cioè che c'è una cosa che tu non la puoi andare, non puoi andare. Cioè, io ho studiato la legge, ragazzi. Cioè, una norma non ha ragione di essere chiamata norma se non c'è una sanzione. Cioè, se io mi azzardo a fare una cosa e non succede niente, vuol dire che quella cosa si può fare. Oppure che non sarà così grave non farla. È come se non ci fosse. Capito? Allora, certamente i genitori devono essere sempre ispirati dalla divina clemenza, che Dio è sempre molto buono e non ci suona come meriteremmo, quindi ovviamente non bisogna indulgere a pene corporali tipo assolutamente fuori luogo o cruente, però anche un gesto simbolico. O anche un gesto, come dire, lieve, ma che comunque viene capito come castigo, io penso che sia indispensabile farlo, perché altrimenti la psiche di questi poveri ragazzini verrà deformata. Io non ho il senso del limite, io posso permettermi di andare a quel paese, mio padre, mia madre, figurate se quando sto in giro per strada, se ho scartato una caramella, non devo buttare la cartaccia per terra, ma sai che me ne importa a me? Cioè, che me ne importa a me? Se io mando a quel paese mia madre, ma che me ne importa che ho buttato una cartaccia per terra? Capite, ragazzi? Ora, vedo che il tempo purtroppo ci incombe, quindi ci fermiamo a questo terzo, come dire, decalogo del parroco e poi riprenderemo la settimana prossima, ecco, sperando di aiutare un po' a capire questo difficile mondo dell'educazione, ricordando che tra l'altro siamo orientamenti pastorali della CEI per il prossimo decennio, dal 2010 al 2020, raccomandavano di mettere il problema educativo al cuore, ecco, dell'impegno delle comunità cristiane. Quindi speriamo anche attraverso questi piccoli contributi di poter dare un piccolo appunto, aiuto a chi desidera riflettere un po' su che cosa significa educare cristianamente i propri figli. Ci sentiamo, se volete, la settimana prossima. La mia benedizione a tutti. Ave Maria.